Radio 24 Reportage. Muri d'Europa di Valentina Furlanetto. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Quanti anni avevate il 9 di novembre 1989, 30 anni fa, quando è caduto il muro di Berlino? I giovani di allora guardavano a quell'evento come a un nuovo inizio, il sogno di un'Europa senza confini. Tanti giovani, giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori. Guardate questo fiume di folla. Questo fiume di folla che passa sotto gli occhi dei Vopos, la famigerata polizia del popolo che tante volte ha sparato. Quel sogno si è poi infranto contro 16 muri esistenti oggi nel vecchio continente. Quasi 1000 chilometri di recinzioni, barriere, filo spinato, radar. Muri eretti per la paura di attentati terroristici e dei flussi migratori. D'altra parte l'Europa ha affrontato l'arrivo nel 2015 di oltre 1 milione di persone, 4 volte il numero registrato l'anno precedente. Come conseguenza, nel 2015 sono sorti muri e recinzioni un po' ovunque, fra Francia e Gran Bretagna, in Norvegia, Svezia, Austria, Ungheria, Polonia, Slovenia, Grecia, Bulgaria, Macedonia. La diffidenza contro la Russia ha poi spinto molti paesi baltici a blindare i loro confini. Passano droga, merci, tabacco, ma non passano gli uomini. 16 muri che hanno fatto dell'Europa una fortezza chiusa anche al suo interno. Periodicamente si parla poi del progetto di un muro tra Italia e Austria e tra Italia e Slovenia. Mentre tra Italia e Svizzera esiste già una barriera virtuale fatta di un intenso pattugliamento di Berna con droni e satelliti sul confine. Fra Francia e Italia poi nessun muro, ma il passo di Bardonecchia è pattugliato e i respingimenti dei minori hanno creato spesso tensioni fra Parigi e Roma. Ma il primo paese europeo a costruire dei muri è stata la Spagna, che tra il 1995 e il 2005 ha isolato le due enclavi che possiede in Marocco, con lunghi muri che circondano le due città. Melilla è un posto strano. La domanda che mi sono sentita spesso fare lì era se avessi notato la statua di Francisco Franco vicino al porto. È l'unica statua di Franco in un luogo pubblico spagnolo. Anche questo particolare è indicativo dell'unicità di questo posto. È una delle uniche due frontiere di terra tra Europa e Africa. L'altra è Ceuta. Melilla è un francobollo di 12 metri quadrati, circondato su un lato dal mare e su altri 3 lati da un muro alto 7 metri, sormontato da filo spinato doppio. Yes, running after jumping. Yeah. Oh, ho corso dopo aver saltato. Alfa, 19 anni, della Guinea Conakry, è un ragazzo alto e sorridente che incontro fuori dal SETI, il centro per richiedenti asilo di Melilla, enclave spagnola in Marocco. Le barriere, erette a fine anni 90, in realtà sono due, parallele, a distanza di qualche metro una dall'altra, con posti di vigilanza alternati e camminamenti per il passaggio di veicoli adibiti alla sicurezza. Ci sono poi dei cavi sul terreno che connettono una rete di sensori elettronici, acustici e visivi. La barriera è dotata di un'illuminazione ad alta intensità, di un sistema di videocamere di sorveglianza a circuito chiuso e strumenti per la visione notturna. Il costo, sostenuto dall'Unione Europea, è stato di 30 milioni di euro. Se il muro doveva servire a fermare o diminuire gli arrivi, ha fallito. A Melilla i migranti continuano ad arrivare. Nel 2018 sono entrate in Europa, attraverso Melilla, 5.700 persone. L'83% via terra, il 17% via mare. All'esterno del SETI, il centro richiedente asilo di Melilla, è un continuo via vai di richiedenti asilo. Qualcuno a sorpresa parla anche italiano. Aboubakar Koulibaly, della Costa d'Avorio, è residente a Lecce. Sono arrivato qui per vedere come la mia figlio sta qui, come rifugiati, sì. E tua moglie? Moglie è morta. Ma niente, la vita è così. Silvia Gabrielle lavora per UNHCR a Melilla. Sono delle persone che arrivano soprattutto dalla Siria, oppure palestinesi che stavano vivendo in Siria e che hanno dovuto abbandonare il paese a causa del conflitto. I numeri degli arrivi dal 2013 fino ad adesso al 2019 sono dei numeri modesti e che comunque sono dei numeri gestibili. Le sfide, sicuramente una parte difficile del lavoro è conquistare e mantenere la fiducia delle persone con cui lavoriamo, di creare o di ridurre le aspettative con cui queste persone arrivano. Le persone con cui lavoriamo sono persone che arrivano da contesti che hanno dovuto abbandonare le loro case a causa della guerra, a causa di situazioni di persecuzione, di violazione dei diritti umani, per cui sono delle persone che arrivano qui a Melilla traumatizzate, che hanno perso tutti i loro punti di riferimento, che hanno visto morire sotto le bombe o nel deserto persone care, che hanno dovuto affrontare dei viaggi difficili, pericolosi e insicuri, per cui arrivano qui. E la prima cosa di cui hanno bisogno è sentirsi sicuri, per cui per UNHCR è molto importante che innanzitutto tutti i loro bisogni siano soddisfatti e che tutti i loro diritti come richiedenti asilo siano garantiti. Ormai sono 5 anni, abbiamo conosciuto tanti uomini, tante donne, tanti bambini, soprattutto siriani, palestinesi, dello Yemen, Iraq, però anche da tanti paesi subsahariani, nel Mali, il Camerun, il Burkina Faso, e sono persone che arrivano traumatizzate, però hanno anche tanta voglia di ricominciare, di vivere una vita dignitosa. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them. Radio 24 Reportage. Radio 24 Reportage. Un terzo degli arrivi a Melilla è rappresentato da siriani in fuga dalla guerra, e questo nonostante il lunghissimo viaggio che comporta questa rotta. Seguono come nazionalità i palestinesi e poi i cittadini della Guinea. Uno di questi siriani è Karim, 21 anni, che nel 2015 ha lasciato Homs. Io sono di Siria. Sono siriano. Di Damasco? No, di Homs. No, di Homs. E vive qui nel centro richiedenti asilo di Melilla? Solo mia moglie e mia figlia, però io tengo residenza. No, vivono qui solo mia moglie e mia figlia. Io ho i documenti di viaggio e la residenza a Siviglia. Sono venuto in Spagna nel 2015 dalla Siria a causa della guerra. A Siviglia ho ottenuto la residenza e i documenti. Lavoro lì come autista da 4 anni ormai. 2 anni fa ho fatto venire mia moglie in Marocco, dove è nata mia figlia. Sono arrivate in Marocco attraverso l'Algeria. Abbiamo pagato una persona per farle passare. Hanno vissuto a Nador, poi hanno passato la frontiera fra Marocco e Melilla a Beni Anzar. Anche qui pagando. Per fortuna io ho un lavoro a Siviglia. Claro, perché io tengo lavoro in Siviglia. In Siria come vive la sua famiglia? Sta male, non è buona. Mi famiglia sta poco in Marocco, poco qui in Spagna. La situazione non è buona in Siria. La mia famiglia oggi sta un po' in Marocco, un po' in Spagna e un po' in Francia. Un po' anche in Spagna, un po' in Francia. Arrivano a Melilla anche diversi cittadini dello Yemen in fuga dalla guerra. Molti migranti, prima di scavalcare il muro, vivono un certo periodo a Gurugu, una collina vicino a Nador in Marocco, che tutti qui chiamano la foresta. Blanca è un'attivista che si occupa dei minori non accompagnati per la ONG Cañada Viva. Many of them don't go to school, they don't have sanitary social health and it's like totally marginalized and molti di loro non vanno a scuola, non hanno diritto alla sanità pubblica. Sono bambini e ragazzini migranti che vivono per le strade, si mimetizzano nella zona del porto, arrivano nascosti sotto i pullman o i camion, vogliono andare in Europa e cambiare vita. Sono soli, vivono di espedienti e della vicinanza delle associazioni che cercano di aiutarli. Non capisco perché Melilla esista, è una grande contraddizione. Qui hanno costruito una fortificazione per difendersi dall'Africa, ma questa è Africa. È un retaggio coloniale che non dovrebbe esistere. Tuttavia, se le barriere di Ceuta e Melilla hanno dimostrato qualcosa, è che il movimento delle persone può sì essere reso più difficoltoso, ma non può essere impedito. Da quando sono nate Ceuta e Melilla, i tentativi di salto non sono diminuiti. I migranti hanno trovato sempre nuovi punti deboli nel perimetro per scavalcare, aggirare o scavare sotto il muro. Alla fortificazione di Melilla ha fatto seguito un aumento considerevole degli arrivi via mare tramite i barconi, una rotta molto più pericolosa e infatti ogni tanto troviamo dei cadaveri alla deriva. C'è anche un dibattito surreale riguardo alle lame che ci sono nell'estremità superiore del muro, perché ora il governo di Pedro Sanchez discute di togliere le lame e il filo spinato, ma solo per il muro dalla parte spagnola. I muri però sono due, c'è il muro dalla parte spagnola, ma c'è anche un muro dalla parte marocchina e lì non verrebbe tolto il filo spinato né le lame, quindi è un dibattito assurdo, non serve a nulla che li tolgano solo da una parte. Il Marocco non li toglie di certo perché l'Europa paga il Marocco perché sia severo con i migranti. Il Monte Gurugu. Sounds beautiful. The name. Sì, la foresta esiste. Si chiama Gurugu. Suona bene, vero? È un bosco, una parte turistica. Ci sono i turisti che fanno le escursioni e danno da mangiare alle scimmie. Nella parte opposta è una foresta molto fitta e lì vivono migliaia di migranti in condizioni disumane. Dormono per terra, si nutrono di quello che trovano, aspettano che arrivi il momento buono per scavalcare. Trattano con i passeur che li aiutano a passare la frontiera, vendono loro i passaporti o i passaggi in barca. Anche Alfa, il 19enne della Guinea che abbiamo conosciuto, ha vissuto un certo periodo nella foresta. Sono stato nella foresta un anno. La vita lì non è facile. Dormire per terra nella foresta, cibarsi di quello che si trova, senza medicine se ti ammali. Inoltre i marocchini non amano le persone africane, c'è molto razzismo. Se ti trovano nella foresta ti prendono il cellulare, le scarpe, ti privano di quello che hai, spesso ti arrestano anche o ti picchiano. C'è molto razzismo. Anche secondo l'avvocato Diego Fernandez della ONG gesuita per i rifugiati, il Marocco periodicamente effettua delle retate a Gurugu. My name is Diego Fernandez Maldonado, I'm a lawyer. Sono un avvocato e mi occupo di migranti. Questa è una città di transito, uno dei modi per entrare in Europa. Abbiamo passaggi costanti. Il SETI, centro richiedenti asilo, è sempre sovraffollato. Ora ci sono 1.600 persone quando ne potrebbe ospitare 800. Abbiamo poi il problema enorme dei minori non accompagnati. Ci sono due centri per loro, sempre pieni per lo più di bambini che arrivano dall'Africa subsahariana, dalla Siria e dallo Yemen. Questi bambini senza famiglia sono migliaia. Ci sono anche bambini di 10 e 11 anni. Age of those children has lowered in the last few years. You can now see 10-year-old, 11-year-old children, kids living in the streets. Vivono per strada e sopravvivono a stento. Molti migranti comprano un passaporto marocchino a Nador, passaporti falsi ottenuti da qualcuno. They buy a Moroccan passport, obtain it somehow. Once in Melilla they show the real passport and they apply for asylum. E a Melilla fanno domanda d'asilo. Se non riescono o non possono comprare un passaporto, cercano di scavalcare il muro, aggirare il tratto di mare o nascondersi nelle auto o nei camion. È accaduto anche a maggio. Un uomo si è nascosto nel cruscotto di un'auto per arrivare qui. Le immagini sono impressionanti. Alcuni muoiono tentando di passare. Fairly harassed in the other side of the border in Morocco. In Nador, they are living in unofficial camps in the mountains and have fairly hard time. I migranti arrestati nella foresta di Gurugu sono rinchiusi in centri di detenzione illegali, poiché i loro arresti non vengono effettuati su ordine di un giudice. Harassment. And they are staying in very, very, very difficult conditions with living in. Tale sequestro può durare diverse settimane. Le autorità marocchine eviterebbero di mobilitare in prima linea la polizia o la gendarmeria, che possono arrestare legalmente delle persone solo su ordine di un giudice. I migranti vengono successivamente respinti contro la loro volontà nel sud del Marocco o al confine con l'Algeria, in aree desertiche, senza fornire loro nessun tipo d'aiuto. Yes, they are detention centers. I wouldn't compare with that situation. I guess we're not at that point yet. Ci sono centri di detenzione. Non farei dei paragoni con la Libia, ma certo non sono situazioni positive. And then we also have reports of people have been mistreated, who have been tortured by the police, and ci sono report che parlano di persone picchiate, torturate dalla polizia, abbandonate nel deserto nel sud del Marocco. Returned not to their home country in most cases, just to the southern Morocco, to the desert area, for them to come back again in the future, you know. Quello che si capisce è che il Marocco è un gendarme meno cruento della Turchia e sicuramente meno della Libia, ma resta un tassello del sistema di esternalizzazione delle frontiere che l'Europa da tempo utilizza. Con tutti i rischi che questo comporta, compresa una dose di ricatto implicito di questi accordi. Secondo molti osservatori, il Marocco potrebbe aver allentato di recente i controlli sui flussi dei migranti per avere una leva contrattuale in più al tavolo delle trattative con l'Europa. È un dato di fatto che i flussi sono molto aumentati in Spagna. Tra il 2014 e il 2016, quando Italia e Grecia subivano ondate migratorie molto importanti, in Spagna arrivavano poche migliaia di persone. Silvia Madellón, della ONG Medicos del Mundo, si occupa della salute dei migranti. Qui a Melilla ci focalizziamo sui migranti. I migranti non hanno accesso alla sanità pubblica. In Spagna non è così. In Spagna chiunque vive sul territorio, anche senza documenti, ha accesso al Servizio Sanitario Nazionale. In Melilla non è così per via della sua autonomia. È una situazione complicata. A Melilla, la notte, vicino al porto, non lontano da dove svetta la statua di Francisco Franco, un gruppo di volontari, per lo più donne legate alla Chiesa Cattolica, portano minestre e pane ai migranti, che vivono per strada. Mi accompagna Blanca, è buio, e le donne hanno già aperto il furgoncino da cui escono coperte e cibo caldo. Decine di giovani arrivano dalle strade buie del porto, si avvicinano rapaci alle ceste di viveri, afferrano pezzi di pane, tazze di minestra, stringono mani, ringraziano. Sono tutti adolescenti, ma c'è anche qualche bambino, sui 10 o gli 11 anni. Improvvisamente arriva la polizia, i migranti scappano, si disperdono, le donne protestano con gli agenti. A Melilla è vietato dare da mangiare agli affamati. Portando il cibo si incentivano i ragazzi a stare in strada, dice la polizia. È l'unico modo per avvicinarli e convincerli a farsi aiutare, sostengono le donne. È tutto molto complicato, ammette Blanca mentre torniamo. Qui a Melilla senti davvero le conseguenze del muro, l'ingiustizia tra quello che abbiamo noi in Europa e quello che non ha il resto del mondo. Like the consequences of the fence of Europe and the inequality with the rest of the world. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.